Per me questo Vangelo è uno dei più toccanti. E se ci penso, se ci medito, è uno che non solo è toccante emotivamente, ma che mi tocca. Cari amici, io prendo l'occasione anche da questo per augurarvi di imparare a pregare e a meditare il Vangelo. Perché se voi venite a messa, anche se dite il rosario in compagnia, certamente è preghiera, ma non imparate a pregare, partecipate alla preghiera. Pregare vuol dire quando tu, invece di sentire una lezione a scuola, ti metti tu sui libri e approfondisci tu. Cari amici, è così. Solo chi di noi riesce a prendere un brano di Vangelo come questo, per esempio, e a farlo entrare come la flebo, avete presente? Goccia, goccia, goccia in vena, se no non entra. Io ho questa fortuna, ho qui un foglietto che è come un libro di scuola, sottolineato in blu, in rosso, evidenziato in arancio, perché quando me lo leggo, me lo studio, lo approfondisco per me. E oggi, da qualche volta, ho la gioia che una ventina di voi si trovano con me ogni 15 giorni al venerdì sera a leggerlo, a meditarlo e a condividere le osservazioni che ciascuno sente di fare. Bene, io ho trovato due spunti in questo Vangelo che sono proprio, dicevo, toccanti. Il primo è che scopro Gesù che ama i suoi amici. Maestro, colui che tu ami è malato. C'è anche un'altra traduzione. Il tuo amico Lazzaro è malato. A me ha sempre colpito il tuo amico. E nella mia preghiera mi soffermavo e dicevo, Signore, tu sei mio amico? Fa me amico tuo. E scoprivo la densità del cuore di Gesù, la sua profonda umanità, che scopro ancora dopo, andando avanti e leggendo il Vangelo, lo portano vicino al sepolcro. Gesù si commosse profondamente e scoppiò in pianto. Quando il cuore è troppo pieno, non ce la fa più e piange. Lo vediamo quando ci muore qualcheduno. Anch'io pianto e mi ricordo il mio amico prete Don Valentino. Ho partecipato al funerale del suo papà, abbiamo accompagnato in un paesino di collina, quindi si andava tutti al cimitero, accompagnato la salma al cimitero e tornando, lui silenziosamente piangeva. Allora una di quelle donne di parrocchia che sanno tutto si avvicina e dice, ma come Don Valentino, piange anche lei? E lui calmo, calmo dice, io voglio molto bene a Gesù, ma volevo bene anche a mio papà. Amici, vedere un Gesù che ti ama così, io me lo sono immaginato, perché ieri ho fatto il funerale di un mio amico sacerdote con cui ho vissuto 11 anni. E vedendo lì per terra, era posata per terra la bara di questo prete, chiusa evidentemente, ma io mi immaginavo il suo volto e dicevo, caro Don Cesare, Gesù è tuo amico e in paradiso ti avrà accolto lui. Amici, dobbiamo queste cose provarle, non appena meditarle, non appena pensarci. Ma se tu non ci stai sopra, senti la lezione del dona predica e basta. E questo è il primo punto, scoprire l'umanità di Gesù, che ti vuole bene, che mi vuole bene. E allora io ho lasciato tutto, ho lasciato la mia famiglia, ho lasciato l'università, ho lasciato una ragazza, perché ho scoperto che come te non c'è nessuno, tu sei l'unico al mondo. E poi vado avanti nel Vangelo e trovo un altro passaggio, il secondo punto fondamentale. Marta, tu ci credi nella risurrezione? Se ci credo, alla fine del mondo risorgeremo tutti. E Gesù dice, non solo, io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. E questo mi fa nascere la preghiera di dire, Signore, quando mi avvicinerò alla mia morte, non alle centinaia e migliaia di funerali che ho fatto in 50 anni di prete, ma quando mi avvicinerò alla mia morte, quando mi faranno capire, perché io ho fatto questo patto con degli amici preti, quando siamo proprio alla fine, noi ce lo diremo. Per non essere imbottiti di farmaci e di bugie, ma di dire coraggio, ci aspetta colui che ha detto io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Amici, vi auguro di fare anche voi queste esperienze sul Vangelo e nella vita.